il lupo, la capra e la capretta. Da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Prima d'uscire al pascolo, la porta col saliscendi al mal guardato vile chiuse la capra accorta e disse alla capretta: «Anima mia, la porta non aprire a chi che sia, se non ti dice il motto, cancro al lupo e a quello che lo porta». Intese il lupo che in un canto, chiotto, se stava ad ascoltare, e si fissò quelle parole in mente. Poi, certo che la bimba non avria conosciuto il terribile compare, corre all'uscio e con voce da priore: «Cancro al lupo!» esclama, «apri mio core!» Credea così d'entrar subitamente, ma l'altra che spiò dal finestrino risponde, degna figlia della capra: «Caro, se vuoi che io t'apra, dammi a vedere in prima lo zampino». Lo zampino del lupo voi sapete che non è poi la cosa a vedersi più bella e più graziosa. Vedendo il vecchio astuto che mal serve la rete, torna a casa così come è venuto. Non è mai la prudenza inopportuna, due chiavi chiudono l'uscio meglio d'una. Fine della favola, il lupo, la capra e la capretta. Questa registrazione è di dominio pubblico.